L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti ad una nuova puntata dell'ottavo giorno, che oggi non può essere uguale a tutte le altre. Il terremoto in Abruzzo infatti ha condizionato tutta la programmazione di Radio 24 in settimana e quindi condiziona anche il nostro programma. Conoscete perfettamente ormai la nostra formula, che prevede una notizia principe al giorno per narrare i fatti principali da sabato scorso a ieri, a venerdì, ma questa volta la nostra narrazione, il nostro racconto sarà quasi interamente dedicato alla tragedia dell'Aquila e della provincia. Tutto questo sempre grazie ai servizi, le interviste e i commenti andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. In questa prima parte del programma ci concentriamo sulla lunghissima visita di Obama in Europa. Sabato scorso è appena uscito Obama da trionfatore dal vertice del G20 di Londra e già incalza un nuovo appuntamento, altrettanto significativo, quello per i 60 anni della NATO. Non mancano scontri tra l'altro tra polizia e manifestanti a Strasburgo, mentre Berlusconi polemizza con la stampa dicendo insomma che gli attacchi che riceve per le sue gaffe, vere o presunte, sono infondati. Ma a Strasburgo, per fortuna anche di chi vi partecipa, succede altro. Sentiamo l'analisi dell'inviato Mario Platero. Si è chiuso questo vertice NATO, 60 anni del patto Atlantico, tensioni all'interno, tensioni all'esterno, quelle interne caratterizzate dalla suspense attorno alla nomina di Rasmussen, che poi alla fine è venuta grazie a uno sforzo di mediazione che ha coinvolto vari leader, tra cui in particolare il nostro premier Berlusconi e il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, tensione all'esterno con i soliti dimostranti che hanno messo a ferro e fuoco Strasburgo. Ma dietro questi due aspetti c'è anche un importante passo avanti della struttura atlantica, e cioè sul piano strategico si è deciso che l'organizzazione non sarà solo reattiva, ma sarà un'organizzazione preventiva. Tutto questo emerge da un documento preparato dagli Stati Uniti, dall'idea di cambiare la missione in Afghanistan, di portarla in modo più approfondito, ma non è stato tutto così semplice. Gli americani hanno in qualche modo criticato il loro presidente, gli hanno detto che non è riuscito a ottenere dagli europei tutte le truppe che voleva, ne avrebbe dovuto avere di più, Obama si è difeso, insomma le solite polemiche. Il fatto importante tuttavia, secondo me, che resta è che questo vertice si è chiuso bene. Alla fine ci sono più truppe per l'Afghanistan, ci saranno delle elezioni, Obama ha chiarito che ci dovranno essere altri sforzi più avanti e soprattutto ha promesso che si vincerà la lotta contro il terrorismo e contro Al-Qaeda, lo ha fatto con un tono davvero determinato, un fatto nuovo questo per questo presidente americano, che finora era sembrato sempre prudente e molto cauto nel prendere posizioni ferme. Domenica è un altro giorno, come dice un famoso film, e Obama è già altrove, infatti si sposta non lontano per la verità da Strasburgo, vola a Praga dove è accolto da un bagno di folla, come ci racconta Sergio Nava. America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons. È responsabilità morale degli Stati Uniti liberare il mondo dalla minaccia nucleare, marcando l'ennesima inversione di rotta rispetto all'era Bush. Il presidente americano Barack Obama ha lanciato ieri, di fronte a 20.000 persone radunatesi ad ascoltarlo al castello di Praga, la speranza di un pianeta senza il rischio di test nucleari, attentati con bombe sporche o conflitti atomici. Per questo Stati Uniti e Russia, ha annunciato Obama, riapriranno i negoziati sulla riduzione delle testate nucleari. Il discorso, dal valore altamente simbolico anche per il luogo, una città dell'ex blocco comunista, ha marcato un riavvicinamento tra le due sponde dell'Atlantico, consolidatosi pure sul fronte ambientale. Ieri, incontrando i leader europei, Obama ha mostrato segnali di collaborazione in vista della conferenza sul clima di Copenaghen. Su un punto però l'Europa che conta e gli Stati Uniti restano divisi. Mentre Obama definisce un segnale importante l'avanzamento della membership della Turchia all'Unione Europea, il presidente francese Nicolas Sarkozy non è d'accordo. Sono e sarò sempre contrario all'ingresso di Ankara, dice. Più morbida nella forma ma non nella sostanza la cancelliera tedesca Angela Merkel, che resta dell'idea che una partnership privilegiata sia meglio. Fuori dall'asse franco-tedesco l'italiano Silvio Berlusconi, che spera di sciogliere il nodo limitando l'afflusso di emigrati turchi al resto d'Europa. E sempre domenica anche Berlusconi ha occasione di parlare del presidente americano. Sentiamo da Praga Gerardo Pelosi. Sì, vedrò Obama a Washington. Silvio Berlusconi accetta di incontrare la stampa italiana a conclusione del vertice UE-USA di Praga per confermare che vedrà nelle prossime settimane il nuovo presidente americano. Un incontro di cortesia con il premier del paese che ha la presidenza di turno del G8. perché in quanto a rapporti con il presidente Obama, dice Berlusconi, ci siamo parlati un mare di volte. Berlusconi parla dell'assoluta convergenza con il presidente americano su tutti i temi al centro di questi giorni di colloqui. Ho fatto i complimenti al presidente Obama nel mio intervento, perché ha confermato tutte le nostre aspettative nei suoi confronti e ha fatto, devo dire, un'ottima impressione a tutti noi per la sua visione, per la sua saggezza e anche per la sua umiltà. Nessun commento invece sullo striscione che alcuni giovani davanti al castello di Praga hanno sbandierato davanti al presidente americano. Sorry for Berlusconi. L'agenda europea di Obama è fittissima, non finisce neppure a Praga, infatti presto poi scopriremo che tra l'altro va ben oltre quelle che sono le tappe ufficialmente annunciate. Intanto lunedì è in Turchia per un passaggio direi chiave del suo tour in Europa. Da Ankara il racconto di Vittorio D'Arold. Barack Obama lancia un messaggio forte nei confronti della Turchia e del mondo islamico. Nel Parlamento di Ankara il presidente americano ha parlato della Turchia come un modello di democrazia laica fondata da Kemal Atatürk. In una regione instabile, dunque, la Turchia è una democrazia stabile e un alleato fedele, membro della NATO, un ponte energetico strategico per l'Europa. Per questo gli Stati Uniti sostengono con forza l'ingresso di Ankara nell'Unione Europea. Quanto al PKK, i separatisti curdi, Obama li ha definiti una minaccia terroristica come Al-Qaeda. Bene invece l'apertura di una TV in lingua curda per favorire l'integrazione dei curdi del sud-est del paese. Quanto all'Iran, la sua dirigenza deve scegliere tra costruire armi nucleari o costruire insieme un mondo più prospero. Un messaggio forte al mondo musulmano, dove l'amicizia e la collaborazione hanno preso il posto della forza e della guerra. E in chiusura di questa nostra prima parte del programma ritroviamo Mario Platero, che ha seguito per tutta la lunga trasferta in Europa Obama. La trasferta si chiude a sorpresa in Iraq, in fondo nel cuore, nel luogo simbolo della politica estera di Bush. Barack Obama è finalmente tornato a casa, è rientrato ieri notte a Washington dopo il suo debutto sullo scenario mondiale, un debutto certamente storico. Lo ha fatto questo ritorno con l'ennesimo colpo di scena, un passaggio a sorpresa in Iraq, lui che ha sempre osteggiato questa guerra, ha avuto un incontro con al-Maliki, gli ha chiesto di riunificare le fazioni e di rimettere in carreggiata il paese, perché comunque sia gli americani se ne andranno, nel 2010 resteranno un 35-40 mila soldati e poi nel 2011 il ritiro definitivo. Il bilancio di questo viaggio è certamente positivo, Obama è andato, come ha detto, per ascoltare, ha avuto tre vertici multilaterali, appunto il G20, il vertice NATO che ha rilanciato la politica sull'Afghanistan a Strasburgo e poi il vertice a Praga con l'Unione Europea, infine la tappa in Turchia con l'abbraccio al mondo islamico. Su più punti, come ha detto David Axelrod, il principale stratega di comunicazione di Obama, si è cercato di seminare, di ascoltare, proprio come aveva promesso di fare Obama in campagna elettorale. I frutti, ha detto, li raccoglieremo più tardi. Di fronte all'iperattivo Obama c'è anche una cosa che probabilmente nel marasma, nella commozione generale del terremoto, è passata un po' inosservata in questa settimana, in questi giorni, e riguarda in particolar modo delle scelte strategiche militari dell'America nei confronti dell'Italia. Sentiamo Anna Marino. I maxi tagli della difesa americana coinvolgono anche l'Italia. Il Pentagono, per voce del suo numero uno Robert Gates, ha annunciato una profonda riforma nei programmi di spesa militare. Nel mirino anche il progetto del nuovo elicottero per la Casa Bianca, l'UH-71, meglio noto come Marine One, progetto dell'italiana Augusta Westland del gruppo Finmeccanica in collaborazione con l'americana Lockheed Martin. Il programma per l'elicottero presidenziale US-101 in origine era pensato per fornire 23 elicotteri, ha detto Gates, al costo di 6,5 miliardi di dollari. Oggi il programma ha una stima di costi oltre i 13 miliardi di dollari, è in ritardo di 6 anni e corre il rischio di non poter fornire le capacità richieste. Il ministro ha spiegato che il Pentagono svilupperà in fretta opzioni per un programma alternativo destinato a venire finanziato nell'anno fiscale 2011. Non si è fatta attendere la replica di Finmeccanica, che in una nota, oltre a ricordare che i costi sono lievitati per le successive richieste del Pentagono, ha precisato che l'eventuale cancellazione del programma VH-71 da parte dell'amministrazione della difesa americana non avrebbe comunque un impatto finanziario per il gruppo, perché porterebbe a penali tali da compensare l'annullamento del contratto attualmente in corso. L'ottavo giorno. Domenica. Scende in campo la Serie A di calcio, per una volta tutte le partite sono nello stesso giorno, non ci sono anticipi e neppure posticipi. La Serie A naturalmente è ignara di quello che sarebbe accaduto poche ore dopo, nella notte, in Abruzzo. Il campionato comunque è favorevole questa volta all'Inter, ancora una volta all'Inter, che nel frattempo deve anche fare i conti con le ultime dichiarazioni di Adriano, l'avete sentito ieri, insomma ha detto di smettere per il momento, di voler restare in Brasile a ricaricarsi, diciamo così. Ma torniamo alla cronaca di domenica scorsa della Serie A con Dario Ricci. Un autogol di Isla regala all'Inter l'1-0 in trasferta a Udine e una bella fetta di scudetto. Nerazzurri ora più 9 sulla Juventus che frena col Chievo. Sentiamo Mourinho a Sky Sport. 9 punti con 8 partite per giocare sono tanti, tranquillità per noi, un po' di pressione per la Juve, più gioia per noi oggi e loro sicuramente non felici perché hanno perso 2 punti. In questo momento sentiamo che lo scudetto è più vicino. Frenata appunto della Juventus, bloccata in casa sul 3-3 dal Chievo. Per i veneti tripletta di Pellissier. Il Chievo ci crede, vogliamo salvarci, quindi per fortuna è arrivato il pareggio. È fantastico, intanto far gol alla Juve è strepitosa, uno dei portieri più forti al mondo. È bello, tripletta, non ho mai fatto tripletta, quindi penso sia una giornata fantastica. Siamo riusciti a pareggiare in extremis, una giornata splendida che penso che ricorderò per tanto tempo. Al terzo posto sempre il Milan che batte nel posticipo per 2-0 il Lecce. Vincono anche Genoa 0-1 sulla Regina, Fiorentina 1-2 a Bergamo e Roma 2-1 al Bologna. Purtroppo, e non è una novità, dal calcio giocato alla cronaca il passo è brevissimo. Pura follia a Cagliari, sentite Anna Rita D'Ambrosio. Un pugno in faccia al professore, poi l'assalto ai 20 studenti con calci, catene dei motorini, spranghe e cinture borchiate. Vittima una scolaresca dell'Istituto Nautico Caio Duilio di Messina, appena sbarcata dalla motonave Clodia della Tirrenia a Cagliari. La sola colpa dei ragazzi, l'accento siciliano, in concomitanza con il match tra i Sardi e del Catania. Per questo, mentre gli studenti passeggiavano nel quartiere Marina, è avvenuta l'aggressione di alcune decine di teppisti che indossavano sciarpe e giubbotti del gruppo dei tifosi organizzati Scombols, già protagonisti in passato di episodi di violenza. Alla Polizia di Stato sono bastate poche ore per rintracciarli nei pressi dello stadio. Sottoposti alle operazioni di rito, 26 sono stati riconosciuti dagli studenti, tutti medicati in ospedale e poi dimessi. È andata peggio all'insegnante, 22 giorni di cura. In serata per lui la visita di scuse del sindaco di Cagliari e degli assessori regionali alla sanità e alla pubblica istruzione. Infine parliamo di Champions League perché si giocano in settimana i quarti di finale, purtroppo senza squadre italiane in campo. Si comincia martedì con i pareggi tra Manchester e Porto che chiudono sul 2-2 la sfida in Inghilterra e l'1-1 invece tra Villarreal e Arsenal. Gol invece a Grappoli arrivano mercoledì, come ci spiega Carlo Genta. Dominio assoluto, totale, imbarazzante e quasi ingiusto come ogni tirannia. Un quarto di finale già non esiste più, forse l'incrocio più atteso. Il Barcellona era già in semifinale dopo 38 minuti quando Leo Messi, in spaccata, segnava la sua doppietta e il 3-0 del Barça. Nel deserto bianco del Bayern Monaco faceva in tempo a danzare anche Henry, prima ancora dell'intervallo. Spiace per Toni e Oddo, che portavano al Camp Nou il dolore italiano sotto forma di nastro nero al braccio, ma credeteci, il castigo poteva essere anche peggiore. Il secondo tempo è accademia con nulla da raccontare, così come niente racconterà la gara di ritorno. Se il quarto di qui sopra è spirato, non che l'altro goda di gran salute, anzi stessa cosa, perché Gus Hiddink conferma di essere l'ultimo vero stregone d'Europa. Il suo Chelsea prima illude il Liverpool, in vantaggio con Fernando Torres, poi lo incanta con la doppietta di Ivanovic a cavallo dei due tempi e infine lo stende con Drogba. Vero che i derby di Coppa sono una bestia strana, ma non si può nemmeno immaginare una festa dei Reds a Londra. Meglio prenotare un martedì al cinema. Lunedì. La situazione è difficile, ci sono crolli e persone coinvolte e anche delle vittime. Questo è il primo bilancio della protezione civile di questo terremoto di 8° e 9° grado della scala Mercalli che ha colpito questa notte L'Aquila, che è stato avvertito in tutta l'Italia centrale. È la voce che avete appena risentito di Dario Ciccarelli, che all'alba di lunedì dà i primi aggiornamenti del terremoto di 5,8 gradi della scala Richter che alle 3:32 della notte ha sconvolto L'Aquila e la sua provincia. Via via il bilancio si farà sempre più drammatico e tra l'altro lo scenario della città e di tanti altri paesi limitrofi diventerà davvero spettrale, un paesaggio lunare potremmo dire. Radio 24 segue ininterrottamente l'evolversi della situazione, i servizi da studio si accavallano con le dirette direttamente dall'Abruzzo, poi ci sono le testimonianze delle persone, dei sopravvissuti o di chi ha perso un parente. Poco prima delle 9 di lunedì interviene al microfono di Alessandro Milan Luigi Vicinanza, direttore del quotidiano dell'Aquila, Il Centro. Il passaggio spettrale, infatti, quello che si vede all'Aquila e dintorni. Le prime immagini, una città sepolta dalle macerie, ricoperta da una patina bianca provocata da innumerevoli crolli. Le vittime, come avete detto, sono tantissime, aumentano di minuto in minuto, non solo il centro storico dell'Aquila, ma tutti i borghi che fanno da corona al capoluogo. Purtroppo anche la famiglia del nostro giornale in questo momento è in lutto, un lutto dolorosissimo. Il capo della nostra redazione dell'Aquila ha perso i suoi due figli nel crollo della sua abitazione stanotte. Noi siamo sconvolti, addolorati. Ci stai dando una notizia, direttore, che io non sapevo, è davvero... È drammatica, l'ho saputa pochi minuti fa, mi ha sconvolto, siamo tutti quanti qui sconvolti. Noi da questa notte stiamo lavorando, stiamo aggiornando in continuazione il nostro sito internet per dare notizie, informazioni in tempo reale. Impossibile in pochi minuti davvero riassumere, raccontare tutto quello che succede in una giornata convulsa come quella che appunto si verifica lunedì. Ci prova comunque Anna Migliorati a fine giornata nella sua cronaca serale. Quando la terra ha tremato alle 23 e poi all'una di notte, in pochi si sono allarmati. Poi alle 3.32 è stato l'inferno. Noi eravamo a letto, ci è caduto in testa in tonaco e altro, e io con i piedi nudi sui mattoni sono andata nell'altra cameretta per prendere i bimbi che pensavo di trovare sommersi. Abbiamo soltanto sentito la casa tremare e le mura venire giù, terrificante, terrificante. Poi in strada abbiamo trovato tegole, cornicioni che cadevano da tutte le parti. In strada, nelle piazze, nei parcheggi dei supermercati, nei campi sportivi, si aspetta il sole e che arrivino ambulanze e le prime notizie. E a Radio 24, tra i primi racconti, quello del sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Se abbiamo il centro storico crollato, gente sotto le macerie, stiamo disponendo tutti gli uomini disponibili. Sono le 10 del mattino, gli ospedali sono in emergenza. Stanno evacuando l'ospedale, alcuni reparti dell'ospedale, perché ci sono dei reparti che hanno subito dei danni. Le notizie cominciano ad arrivare anche dai comuni limitrofi. Paganica non c'è più, a Fossa è crollato anche un costone di roccia. Il centro storico praticamente non esiste più. Mentre correvamo, mentre scappavamo dalla casa, continuava sempre a fare il terremoto. È durato tantissimo, un'eternità. È drammatico, sono cadute le rocce dei sassi nella montagna, col crollato il campanile, diversi edifici sono crollati. Dopo le 13 è ancora panico. In città, nei centri di accoglienza, cominciano ad arrivare i primi pasti caldi, altrove è difficile. C'è gente che sta nei prati, qualcuno sta mangiando qualcosa perché se è da stanotte che stiamo fuori. Panico. Sei di fine di dicembre che cominciavano, ci sono state una serie di scosse, era una cosa, ecco, adesso sta facendo molto forte. Sì, lo sentiamo, vedo poi muoversi il tutto, si è sentito anche un boato. Passano le ore, si cerca di attrezzarsi per la notte, chi in macchina. Luoghi di accoglienza di Santa Barbara e Cendicolella. È stato anche detto che troppa gente e di evitare di spostarci. Hanno già allestito la tendopoli, noi siamo adiacenti alla strada provinciale e in mezzo all'aperta campagna e vediamo tante pattuglie dei vigili del fuoco passare con la speranza che vengono qua, ma... Quando cala il buio, ognuno ha trovato la sua sistemazione. Dormire, quello, è tutt'altra cosa. Ci sono tanti simboli macabri che si possono trovare in questo terremoto abruzzese. Noi ne mettiamo vicini due. Da una parte la fine di un intero paese, Onna, precisamente una frazione di L'Aquila. E poi un altro simbolo invece che arriva dal centro dell'Aquila, il crollo della casa dello studente con tutto il carico di morti, giovanissimi, che si porta appresso. I servizi sono degli inviati Vincenzo Miglietta e Mariano Maugeri. Un paese completamente distrutto, un cumulo di macerie. La definizione di ciò che resta di Onna è dei vigili del fuoco che da ieri mattina stanno scavando con tutto ciò che hanno a disposizione, dai mezzi di movimento terra, alle pale, ai picconi, in alcuni casi anche con le mani laddove vi è ancora la speranza di trovare qualcuno in vita. Il bilancio parziale tuttavia dice luce che Onna è il paese più colpito tra quelli nell'area dell'Aquila. Su 350 abitanti si contano fino a 50 tra morti e dispersi, anziani, giovani, bambini, perfino neonati. Corso verso il paese, ho visto la prima casa crollata per terra, là ho cominciato a chiedere serve aiuto, però non rispondeva nessuno. Poi invece stamattina abbiamo tirato un ragazzo, mi ha detto ci sta mamma sotto al letto, sono andato ma il letto era coperto dal tetto, non si è potuto tirare fuori, ci siamo tornati con i vigili del fuoco e l'abbiamo tirata fuori dopo. Niente, non rispondeva più nessuno, era terribile. Queste sono le parole di Giacomo, uno degli abitanti di Onna, tra i primi ad intervenire. La macchina dei soccorsi qui è stata messa a dura prova, non sono tuttavia mancate le polemiche. Fino al tardo pomeriggio di ieri non c'erano tende né una cucina da campo, poca secondo gli abitanti anche l'assistenza diretta a chi ha perso tutto. In serata poi per molti un viaggio doloroso, lasciare ciò che resta della casa per andare in un albergo sulla costa adriatica. Il crollo della casa degli studenti dell'Aquila, come l'implosione della scuola elementare di San Giuliano di Puglia della fine dell'ottobre del 2002, 26 bambini morti asfissiati mentre facevano le aste sui quaderni. I campus italici nelle palazzine sbilenche degli anni 60, si risparmia sul cemento, sui tondini, sugli intonaci. Angela studia ingegneria, l'israeliano Michelone Hussein medicina. Si può morire dopo aver riposto negli scaffali manuali di analisi matematica e patologia medica? In Italia sì. Gli sciami sismici, secondo la personalissima teoria del sindaco dell'Aquila, così come vengono, sarebbero scomparsi, senza danza della pioggia, riti voodoo e tantomeno l'organizzazione di un piano di evacuazione. Né paganesimo, né scienza dell'organizzazione, insomma. Quello che fa più impressione di questa ennesima catastrofe nazionale è il silenzio, l'imbarazzo, l'inerzia, peggio del terremoto di Avezzano, 50 chilometri dall'Aquila, del 13 gennaio 1915, quando la storia non insegna nulla. E poi bisogna fare i conti con le morti che si piangono forse più delle altre, quelle dei bambini. Queste vicende ribaltano un po' le regole della natura, che di solito vuole che siano i figli a seppellire i padri e non viceversa. Il racconto straziante di Raffaella Calandra. Alcuni li hanno trovati ancora abbracciati ai loro orsacchiotti e così sono stati adagiati nelle bare. Due fratellini sono morti stretti alla mamma. C'è chi è stato salvato perché strappato di corsa dal lettino e chi ha continuato a piangere non trovando più nessuno dei genitori. Le macerie dell'Abruzzo hanno inghiottito il sorriso anche di tanti bambini, almeno 4 solo all'Aquila. A Fossa il destino di 2 gemelle russe di 3 anni è stato separato dalle pietre della loro casa, dove abitavano da un mese. Una bimba ha perso la vita mentre la sorellina si è salvata. A Onna il sisma, oltre alle case, ha soffocato pure la speranza di un futuro, uccidendo la più piccola, una bimba di 8 mesi, ora adagiata anche lei insieme a tutti gli altri morti della comunità, come Maria Paola e Domenico, 16 e 18 anni, i figli di un giornalista del centro. Solo il giorno prima invece era arrivata dalla Francia per le vacanze di Pasqua un'altra bambina, estratta senza vita dalle rovine di un palazzo del centro storico di San Gregorio. A pochi metri di distanza una coetanea di 2 anni si è salvata perché la mamma le ha fatto da scudo perdendo la vita. Detriti e calcinacci hanno ucciso a Poggio Picenze 3 adolescenti e le loro 2 mamme. Appartenevano alla comunità slava che abitava nel cuore antico del borgo. Abbiamo tentato di rianimarli ma sono arrivati già soffocati. È la disperazione di Bernardino Persichetti dell'ospedale San Salvatore. L'ottavo giorno. Martedì. Di fronte a tragedie come quella che sconvolge l'Abruzzo, non ci dovrebbe essere spazio per polemiche di nessun tipo. E invece, mentre la politica, in realtà, almeno in parte, riesce a frenare la rissa, anche se poi proseguono i dibattiti accesi, peraltro legittimi, sugli errori nelle costruzioni, per esempio c'è il caso clamoroso dell'ospedale quasi nuovo di Zecca, crollato inspiegabilmente, ma anche poi la prefettura e altri palazzi dello Stato. Quindi questa discussione è assolutamente pertinente e assolutamente legittima. Per il resto devo dire che la politica si compatta e per una volta segue così le indicazioni dell'Unità Nazionale. D'altra parte invece i toni sono più accesi tra gli scienziati che studiano i terremoti e soprattutto sulla loro prevedibilità o meno. Sentiamo Paolo Piacenza. Mentre ancora in Abruzzo molti paesi erano isolati, la gran parte delle vittime e dei feriti erano sotto le macerie, la polemica sulla prevedibilità del terremoto era già alta. a renderla inevitabile lo sciame sismico che ha investito la regione da circa 3 mesi e poi soprattutto l'accusa di procurato allarme che da alcuni giorni pende sul capo di Giampaolo Giuliani, il tecnico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che aveva annunciato un evento sismico di grande portata. Ieri sera lo stesso Giuliani, intervistato A Porta, ha ripetuto che il macchinario da lui brevettato avrebbe permesso di prevedere il terremoto. Non è assolutamente vero che non è possibile prevedere i terremoti. La macchina che io ho realizzato, che dovrebbe essere un radometro, ma radometro non è perché ha delle caratteristiche diverse, ci permette di vedere un qualcosa che i radometri non possono vedere. La presidente della provincia dell'Aquila, Stefania Pezzopane, ospite di Radio 24, è meno perentoria, ma avanza pesanti dubbi. Fare polemica non mi piace, però ho parlato di tragedia annunciata non a caso. Noi sono 2 mesi che abbiamo questo sciame sismico, come lo chiamano i tecnici, e il 30 di marzo è stato uno sciame sismico in crescendo. Il 30 di marzo abbiamo avuto una scossa di oltre 4 gradi di scala Mercalli. Il piano che si sta realizzando adesso piano piano lentamente forse poteva essere almeno pensato a tavolino prima. Il sottosegretario Bertolaso, tuttavia, ieri ha ribadito che i dati scientifici negano la possibilità di prevedere gli eventi sismici e lo stesso hanno detto il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Enzo Boschi, e il presidente onorario della Commissione Grandi Rischi, Franco Barberi. Anche il geologo Mario Tozzi esclude la prevedibilità del singolo evento, ma aggiunge che si dovevano e potevano prevenirne gli effetti. Noi viviamo in un paese che si dimentica di avere un grande rischio naturale, tutto qui. Siccome noi ce l'abbiamo elevato il rischio sia per le frane, per le alluvioni, per i vulcani e anche per i terremoti, forse ne dovremmo tenere conto di più. Se tu non risani i centri storici italiani, non spendi denari pubblici e privati in questa grande opera, prima che in altre, secondo me, poi è difficile che tu possa non lamentarti. I danni umani purtroppo non hanno prezzo e sono soprattutto irreparabili. Ma l'Abruzzo piange anche migliaia di sfollati, un'economia che si ferma e un intero patrimonio artistico che cade a pezzi, anche mentre vi parliamo. Di questo disastro artistico fa una sorta di bilancio Adriana Fracchia nel GR delle 13 di martedì. È il momento di fare la conta dei danni a musei, monumenti e siti archeologici dell'Abruzzo. Giuseppe Proietti, segretario generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è colui che sta aggiornando la lista insieme ad una task force di esperti, gli stessi che nel 1997 operarono dopo il sisma che colpì l'Umbria. La mappa dei danni continua purtroppo ad allargarsi. All'Aquila è stato accertato il crollo del campanile della chiesa di San Bernardino, che ha anche l'abside danneggiata. Crollati il cupolino della chiesa di Sant'Agostino e la cupola della chiesa del Suffragio. Quest'ultima, conosciuta anche come la chiesa delle Anime Sante, si trova nella piazza principale dell'Aquila, l'antica piazza del mercato. Crollati poi il palazzo della prefettura, che ospita la sede dell'archivio di Stato, e la parete di fondo della basilica romanica di Santa Maria di Collemaggio, la cui facciata costituisce il massimo capolavoro dell'arte abruzzese. Questa basilica, nota anche come la chiesa di Celestino V, unico papa dimissionario nella storia della cristianità, ne custodisce le spoglie mortali, ma fortunatamente il suo sepolcro è rimasto intatto. Crolli si registrano poi anche nel castello cinquecentesco, dove hanno sede il Museo Nazionale d'Abruzzo e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, e quella per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico d'Abruzzo. Il museo, dichiarato per ora inagibile, viene presidiato dal personale di custodia. Gravi poi anche i danni al convento di San Giuliano. Ma l'onda d'urto del sisma ha colpito anche in altre province abruzzesi. I centri più danneggiati sono Santo Stefano di Sessanio, dove è crollata la Torre Medicea medievale, simbolo di uno dei borghi più belli d'Italia, e ad Atri, infine, è stato chiuso il Duomo, uno dei più importanti dell'Italia centrale. La politica, bisogna dire, questa volta è rapidissima, si muove celermente per venire in soccorso anche moralmente, anche simbolicamente, alle vittime del terremoto. Berlusconi fa un continuo avanti e indietro dall'Aquila, ma vanno anche molti ministri, ci sono anche esponenti dell'opposizione. Persino dall'estero questa volta prevalgono i giudizi positivi sul premier. Però sullo sfondo, con piccole polemiche che affiorano, c'è poi il piano casa che lo stesso governo era pronto a varare qualche settimana fa. Il terremoto naturalmente cambia le carte in tavola. Sentiamo Andrea Viale. Agire in stretta collaborazione per meglio aiutare le popolazioni colpite dal sisma. Governo ed enti locali concordano sulla necessità di mettere a punto indicazioni operative che consentano di coordinare le nuove iniziative con le quali nei prossimi giorni si dovrà far fronte all'emergenza terremoto. Lo hanno ribadito anche ieri in un incontro a Palazzo Chigi il presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani. Questo lavoro l'abbiamo cominciato nelle primissime ore dopo il terremoto, continuerà nelle prossime settimane. con un grandissimo impegno, anche raccogliendo quel grande spirito di solidarietà che è venuto dai cittadini, dalle cittadine, dalle famiglie del nostro paese. Governo e regioni hanno anche deciso di approfondire il confronto sul piano casa, nel quale potrebbero essere rafforzate le misure antisismiche. Il ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto. Abbiamo aggiunto un'altra valutazione, che è quella di prendere qualche giorno di tempo in più d'intesa con le regioni per predisporre i contenuti del decreto sulla semplificazione, che era collegato all'accordo sull'edilizia della settimana scorsa. Come abbiamo anche ricordato pochi minuti fa, Berlusconi va praticamente tutti i giorni in Abruzzo e all'Aquila. In particolare martedì visita gli sfollati, garantisce soprattutto sulla ricostruzione e interviene anche sul dibattito che scatta in giornata sull'opportunità o meno di accettare gli aiuti dall'estero. Sentiamo Elisabetta Fiorito. No agli aiuti internazionali per gestire l'emergenza. Un no ribadito dal premier Silvio Berlusconi alla conferenza stampa all'Aquila. L'Italia, malgrado ciò che propone l'opposizione, ce la può fare anche da sola. Abbiamo deciso di dire grazie, ma di invitare a non inviare qui loro aiuti ai tanti stati che si sono messi a disposizione. Perché? Perché siamo in grado di rispondere da soli alle esigenze, siamo un popolo fiero. Più tardi, alla tendopoli di San Demetrio, Berlusconi torna ancora a parlare degli aiuti offerti dagli stati stranieri e soprattutto dagli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti mi ha offerto qualunque tipo di aiuto, ho risposto che grazie a Dio siamo in grado di far fronte alla situazione con le nostre forze, però gli ho anche detto che se per l'opera di ricostruzione, se ci fosse la possibilità di prendere nelle loro cure la ricostruzione di qualche cosa, magari anche un bene pubblico, una chiesa, un bene culturale, questo sarebbe molto apprezzato da noi. Lui ha detto un'ottima idea. Chiudiamo la cronaca di martedì con il resoconto finale di Massimo Di Scienza su un'altra giornata peraltro di paura, ma persino di luce e di speranza per un salvataggio miracoloso. Per tutta la giornata la speranza si è alternata con la paura. La speranza che dalle macerie si riuscisse ad estrarre qualcuno ancora in vita. La paura che una delle tante scosse di assestamento che hanno costellato le ultime ore potesse causare nuovi danni. La più violenta alle 19.42 ha fatto temere il peggio. Un sisma di 5,3 gradi della scala Richter, secondo per forza solo a quello della notte tra domenica e lunedì. All'Aquila è crollata la volta del Duomo. Nei centri vicini hanno ceduto altri edifici già lesionati. Nel capoluogo e nei paesini, ormai completamente disabitati, non c'è stata alcuna vittima. Non così a Roma, dove un 76enne è morto di infarto per la paura. In Abruzzo il panico ha superato anche la stanchezza, ma quest'ultima scossa per il professor Enzo Boschi potrebbe essere un buon segnale. Se il processo di liberazione dell'energia continua in questa maniera, scosse più forti possono diventano sempre meno probabili. Per i soccorritori, ore ed ore di estenuante lavoro tra le macerie, con momenti di gioia come per il ritrovamento di Eleonora, studentessa di 20 anni estratta viva all'Aquila dal cumulo di lastroni e cemento armato che l'aveva inghiottita 42 ore prima. Attimi di felicità, inevitabilmente mescolati allo straziante aggiornamento del bilancio dei morti. Ora dopo ora, mano a mano che dalle macerie venivano recuperati i corpi senza vita, come per i quattro ragazzi estratti dalla casa dello studente, poi in serata parzialmente abbattuta per il timore di nuovi crolli. Gli sfollati adesso sono 25.000, lo conferma anche il presidente della regione Chiodi. Il loro rientro a casa non è affatto vicino, come conferma il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Case della città, vorrei dire quasi tutte, sono case che o sono definitivamente inagibili o comunque per essere riabitate necessitano di un esame da parte di tecnici. Mercoledì. Guardando e pensando a quello che succede all'Aquila, lo spettacolo che contemporaneamente va in scena a Roma nel Parlamento stride e parecchio. I partiti, infatti, che l'abbiamo anche ricordato prima, in Abruzzo predicano l'unità nazionale, tornano invece a dividersi drasticamente su temi caldissimi come sicurezza, immigrati e ronde. Paola Cavalli. Quello approvato ieri dalla Camera è un decreto sicurezza dimezzato. Spariscono le ronde stralciate dal governo per superare l'ostruzionismo dell'opposizione e sparisce, perché clamorosamente bocciato dall'Aula, anche l'articolo 5, quello che allungava a 180 giorni la permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione. Due passaggi che sono bastati a scatenare l'ira del Carroccio. I deputati della Lega non hanno partecipato al voto finale del provvedimento, che in serata è stato approvato con 397 sì, 6 no e 2 astenuti. Paradossalmente, a votare a favore del decreto sono stati ben 205 deputati di opposizione e solo 192 di maggioranza. Il ministro dell'Interno Maroni si è detto furibondo e ha puntato il dito contro i franchi tiratori tra le file del Popolo della Libertà. Poi ha chiesto un chiarimento politico al premier Berlusconi. Sono furibondo con l'emendamento del PD e dell'UDC, votato anche da alcuni franchi tiratori del PDL. Oggi si è votato l'indulto per i clandestini. Soddisfatta l'opposizione che in una sola giornata ha incassato due risultati importanti. Antonello Soro, capogruppo dei deputati del Partito Democratico. È una bellissima giornata per l'opposizione, per il Partito Democratico, per il Parlamento intero, perché si appropria pienamente di alcuni valori che stanno sopra le parti. Una bella giornata. L'ottavo giorno. Giovedì. Il Presidente della Repubblica è all'Aquila e tra l'altro usa parole pesanti, di pietra, dice che le colpe sono di tutti e bisogna fare una sorta di esame di coscienza collettivo. Contemporaneamente le scosse si susseguono anche qui a Roma, ne abbiamo avvertita una intorno alle 10 di giovedì sera, ma noi intanto riprendiamo invece una storia tra le storie, quella della casa dello studente crollata in pieno centro città. Valeria De Rosa. Solo oggi la casa dello studente ha restituito tutti i ragazzi che si è portata via domenica notte, quando si è ripiegata su se stessa. L'ultima storia di via 20 settembre è quella di Luca. Aveva 20 anni Luca, era di Rieti, studiava ingegneria informatica. Era all'inizio di tutto, dello studio, delle amicizie fuori sede, dell'amore e della vita di padre. La sua bimba ha 7 mesi, la sua compagna 16 anni. Straziate 3 generazioni, anche se questa bambina piangerà tra anni, forse, ci auguriamo, quando tutto sarà ricostruito. Il terremoto ha schiacciato i giovani, li ha inghiottiti, li ha portato via gli amici, li ha rubato un pezzo di futuro. Alla casa dello studente c'era anche Kader, era scappato da Gaza e dalle bombe e dalle macerie. In Italia ha trovato altre macerie, capaci di ammazzarlo. Carmen e Maria invece erano amiche, originarie del Beneventano. Dividevano un piccolo appartamento. Le scosse le hanno sorprese nel sonno e sono andate via insieme, speriamo senza accorgersene. Valentina è stata sfortunata, le sue compagne si sono salvate, lei no. Stesso destino per Carmelina. Lei si era già laureata, stava ipotecando il suo domani con una specializzazione in psicologia. Una lista lunghissima. Per molti di loro le famiglie non hanno voluto aspettare i funerali di Stato, hanno preferito salutare i loro ragazzi in privato, piangendo lacrime di dolore e lacrime di impotenza per non essere riusciti a salvare i propri figli. Della presenza assidua del governo e di tutta la politica, maggioranza e opposizione insieme, abbiamo già detto. Giovedì, tra l'altro, il governo affronta l'emergenza primaria, quella che addirittura viene prima della ricostruzione, e cioè gli interventi straordinari per chi, ormai senza una casa, senza soldi e senza purtroppo anche un lavoro, deve affrontare le spese correnti. Anna Marino. Confermato che il decreto Abruzzo tornerà sul tavolo del Consiglio dei Ministri la settimana prossima dopo Pasqua. L'esecutivo però ha dato il via libera a un'ordinanza per sospendere per 2 mesi i termini relativi a mutui e bollette per rinviare i termini giudiziari, fiscali che riguardino cittadini residenti nelle zone colpite dal sisma. Sì anche alla rinegoziabilità dei mutui a farmaci distribuibili senza ricetta, misure urgenti per il settore commerciale agricolo, cioè 800 euro al mese per i lavoratori e sospensione dei contributi per gli imprenditori. Inoltre il governo ha stabilito un contributo fino a un massimo di 400 euro mensili per ciascuna delle famiglie sfollate, con un'aggiunta di 100 euro per gli ultra 65enni e i diversamente abili. A dare i dettagli del provvedimento il premier Berlusconi, che oltre ai numeri dello sforzo umanitario ha sottolineato le misure disposte. Abbiamo contemporaneamente autorizzato il ministro dell'economia e delle finanze ad una variazione di bilancio che consente di mettere da subito a disposizione della Protezione Civile un'ulteriore somma di 70 milioni che, sommati ai 30 milioni già stanziati il 6 aprile, portano a 100 milioni le cifre messe a disposizione della Protezione Civile per le prime necessità. A sostegno degli sfollati e delle vittime del terremoto c'è anche la macchina straordinaria e direi straordinariamente generosa della solidarietà, anche se poi si assistono a delle scene che per contrasto mettono davvero i brividi. Per esempio qualcuno si è lamentato del pedaggio che è stato costretto a pagare sull'autostrada tra Roma e L'Aquila, qualcun altro ha segnalato che pagando il bonifico per l'emergenza Abruzzo ha dovuto anche poi pagare la commissione alla banca. Insomma, quindi ci sono delle cose che tornano e altre che non tornano. Naturalmente la beneficenza arriva anche dall'estero, per esempio si è mosso l'ambasciatore tedesco. Gli Stati Uniti hanno donato in maniera anche abbastanza nascosta, insomma dimessa, $50,000, mentre Madonna addirittura ha donato $500,000. In tutto il discorso del terremoto direi che comunque la cosa più inquietante è il crollo di edifici nuovi e strategici. Abbiamo parlato a lungo, abbiamo visto a lungo i discorsi attorno all'ospedale, alla prefettura e ad altri monumenti e ad altre istituzioni pubbliche. A valle di tutta la polemica che naturalmente innesca quello che è successo c'è il piano casa del governo, mentre a monte ci sono i continui rinvii in nome di deroghe infinite sulla normativa antisismica approvata in realtà già nel 2005. Su questo aspetto Paolo Piacenza giovedì ha intervistato l'ingegner Alessandro Martelli, responsabile della sezione prevenzioni rischi naturali dell'Enea e che tra l'altro è autore il 12 febbraio scorso di una lettera nella quale aveva chiesto inutilmente al governo di non spostare la data di entrata in vigore appunto della normativa antisismica da giugno di quest'anno a giugno dell'anno prossimo. Tutte le proroghe successive, che siano Roma, Berlusconi o Prodi, sono state delle proroghe che negli ambienti tecnico-scientifici abbiamo giudicato sbagliate. Lì ci sono state diverse pressioni, un po' gli ordini all'inizio che insomma hanno fatto un po' di resistenza, purtroppo molti progettisti vivevano un po' con questa mentalità, rinnovarsi e riaggiornarsi non piace a tutti, e poi probabilmente perché adesso direi almeno per quello che riguarda l'ultima richiesta di proroga, quella fatta nel disegno di legge, poi diventata legge, mille proroghe, diciamo probabilmente c'erano altri discorsi dietro dovuti al fatto che la nuova normativa sismica, le nuove norme tecniche per le costruzioni, diciamo qua dei costi aggiuntivi li comportano, perché una struttura fatta per resistere meglio al terremoto costa di più di una struttura non fatta per resistere al terremoto. Lei cosa ha fatto? Ha preso carta e penna e ha scritto... Allora io, non solo io, diciamo io tra l'altro... tutte le associazioni del settore, come associazione ci siamo messi d'accordo di scrivere al ministro o al governo chiedendo che, quando ancora il mille proroghe non era stata approvata al Senato, chiedendo che non si ammettesse questa proroga. Tra l'altro anche la stessa Protezione Civile scrisse, però come tante cose che succedono negli atti parlamentari, nonostante il ministro Matteoli abbia dichiarato, mi dicono anche per iscritto, la sua contrarietà alla proroga, però il decreto è stato blindato, è stato per questioni per farlo passare, quindi blindato al Senato, ovviamente blindato poi alla Camera, e quindi ci siamo tenuti questa norma. E a privilegiare interessi personali, economici, tra l'altro non credo neanche enormi, rispetto a garantire la sicurezza dei cittadini. Venerdì è il giorno dei funerali solenni, la punta massima dell'emozione e del cordoglio in vicende come questa, ma spesso anche, troppo spesso, punto di svolta, di snodo per una china che poi porta inesorabilmente alla suefazione e al graduale distacco sia emotivo sia poi dell'interesse dei media e dell'informazione. Prima però di risentire i momenti più toccanti dei funerali di Stato, con l'omelia del Cardinale Bertone, e per i quali il Papa ha concesso anche una dispensa speciale, visto che ieri era Venerdì Santo, quindi giorno nei quali per la cristianità non dovrebbero essere previsti funerali, dicevo, prima di ascoltare tutto questo, dedichiamo il prossimo servizio all'esercito, senza armi per fortuna e senza soprattutto intenzioni bellicose, dei volontari. Massimo Di Scienza. È come se un intero paese si fosse trasferito in Abruzzo per portare i primi soccorsi alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile. Sono più di 8.000 gli operatori che da lunedì stanno lavorando senza soste all'Aquila e nei centri vicini per scavare tra le macerie, montare le tende, cucinare pasti, curare feriti. A coordinare gli interventi sul campo c'è la Protezione Civile, che ha fatto arrivare personale da 12 regioni, in 600 dal vicino Lazio, ma anche 583 dal Veneto, 500 dal Friuli, 440 dalla Lombardia. Non manca chi ha vissuto da vicino in passato tragedie simili, sono stati i primi a rispondere presente. Ci sono professionisti come i vigili del fuoco, i militari dell'esercito, ma anche i 3.000 volontari di associazioni laiche e religiose. Ma come vengono selezionati i volontari in partenza per le zone terremotate? Lo abbiamo chiesto a Don Andrea La Regina, responsabile Caritas. Andiamo a pescare, tra virgolette, su quelli che già hanno fatto esperienza in questo campo. Non ci si può improvvisare, diciamo, in queste situazioni. Certamente accogliamo anche chi si rende disponibile, ma poi deve essere, far riferimento alla sua Caritas diocesana e alla delegazione regionale, che può prevedere dei momenti di incontro, perché noi chiediamo che sia un impegno animativo, non di distribuzione, perché questo già c'è. Nei punti di raccolta i volontari preparano da mangiare ed ascoltano le storie dei sopravvissuti. Gente che, come raccontano gli uomini della Protezione Civile, non si lamenta mai ma chiede solo un posto in tenda. E veniamo ai funerali solenni che si celebrano ieri. Alle 11 comincia la cerimonia, in migliaia affollano il cortile della caserma della Guardia di Finanza, mentre nel frattempo il bilancio delle vittime sale a quota 289. Sono presenti all'Aquila tutte le autorità nazionali, da Napolitano a Berlusconi, che peraltro è mescolato tra i parenti delle vittime. Tra il corteo di bare, tra l'altro molte bianche, ad ascoltare anche il messaggio del Papa letto dal suo segretario personale padre Georg, c'è anche per Radio 24 Elisabetta Fiorito. Ecco la sua testimonianza alle 13 di ieri, pochi minuti dopo la fine della cerimonia. È stato un momento molto commovente, la messa è stata, abbiamo trasmesso la messa in diretta, è stata praticamente celebrata da Monsignor Tarcisio Bertone, accompagnato anche dal Vescovo dell'Aquila Giovanni Molinari. Lui ha parlato proprio del silenzio di Gesù sulla croce, quel silenzio che invoca Gesù Cristo. Padre mio, perché mi hai abbandonato? Però ha detto, in quel silenzio si trova l'amore, si trova la solidarietà di questa Italia, di un'Italia eccezionale. In questa vostra città e nei paesi che hanno conosciuto momenti difficili nella loro storia, si raccoglie oggi idealmente l'Italia intera che ha dimostrato anche in questa difficile prova quanto siano saldi i valori della solidarietà e della fraternità che caratterizzano la nostra Italia. Abbiamo finito questa puntata davvero diversa dal solito, condizionata nelle emozioni, nel racconto dal terremoto dell'Abruzzo. Finiamo qui dandovi la mail ottavogiorno@radio24.it. Io ringrazio in modo particolare Paolo Corleoni in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 10 oppure in replica alle 23. Intanto buona Pasqua a tutti.